tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, siamo una nuova puntata del notiziario anticlericale. Apriamo con il Corriere della Sera del 1 novembre. Sposa 93enne in fin di vita, prete indagato. Avrebbe attuato il reato di circonvenzione di incapace facendola sposare con una sua amica settantenne. Era un anziano ricchissimo di 90 anni. Il settimanale Cronaca Vera sbatte il mostro in prima pagina. Il cardinal Beccio e la sua presunta amante in prima pagina. Anche l'Espresso settimanale del 1 novembre, ricatto a San Pietro. Pressioni su Monsignor Pegnaparra, sostituto di Becciu, che doveva ripulire le finanze della Chiesa, invece scandali a tutt'andare. La giustizia vaticana ipotizza associazione per delinquere. E i soldi finivano in Svizzera e in altri paradisi fiscali. Dossieraggio ricattatorio. Insomma, le solite porcherie del Vaticano. Il cardinal Beccio ha continuato a dirigere gli affari della Cassa della Segreteria di Stato anche dopo la sua rimozione. E quindi, insomma, lo scandalo è ancora in pieno sviluppo e vedremo come evolve. Dicevamo settimanale Cronaca Vera, invece va giù pesante, torbidi misteri all'ombra di San Pietro. La signora 39enne arrestata su mandato di cattura dello Stato Pontificio. Insomma, vedremo come va a finire. Il Papa toglie i fondi alla Segreteria di Stato. Lo comunica il giorno del 6 novembre 2020 e per passarli all'APSA, un altro ente del Vaticano. Insomma, vedremo. Scandalo alla Villa San Camillo a Catania, dove i pazienti venivano seviziati. Poi vedremo come evolve la cosa. Operazione illecita preparata dal 2016, da il giorno del 6 novembre. I misfatti dei leghisti filocrocifissi. Insomma, questi tre commercialisti difesi da Salvini, fermati, intreccio criminale, blitz, ville lussuosissime sul lago di Garda, insomma hanno rubato milioni e milioni di euro. Prete e suoi amici, se li conosci, li eviti. Condannato il Forza Italiota filo crocifissi Verdini. Condanna confermata anche in Cassazione. L'ex senatore si costituisce a Rei Bibbia. Bene. Il settimanale giallo dell'11 novembre ci ricorda lo scandalo del criminale De Pedis, che fu autorizzato dal Vaticano ad essere sepolto nella illustre basilica sita nel centro di Roma. Passiamo poi al prete reazionario di Macerata: l'aborto è peggio della pedofilia. L'omelia fanatica di questo prete, già noto per essere un noto filofascista, è finita su tutti i giornali. Poi la carenza dei consultori in Sicilia provoca un nuovo morto, neonato tra i rifiuti, a Ragusa. E l'educazione sessuale è sempre estremamente carente, soprattutto in Sicilia. Corriere della Sera del 1 novembre. E il manager che svelò al Papa le camere a gas. Nuovi documenti provano come il Vaticano sapeva benissimo di tutte le stragi enormi e questi fenomeni forme esecrande e spaventose che avvenivano in Polonia, questi gasamenti di massa, ma continuò imperterrito ogni 20 aprile a mandare gli auguri di buon compleanno a Hitler, augurandogli ogni benedizione. Poi dal mio archivio, è saltato fuori questa foto che potete trovare anche su internet, lussuosa tomba dell'arcivescovo Luis de Torres nella cattedrale di Malaga. Ecco, digitando così la potete vedere, è una lussuosissima tomba in cui lui è in posa tipo etrusco e ovviamente di costo astronomico, di marmi pregiati, grandezza naturale, insomma i soliti lussi dei preti. Altro che Pax Christi, questa foto dal mio archivio supera ogni immaginazione. Dall'opuscolo di F. Sabbadin, Le ali dell'arcangelo, edito a Cermenate Comune 2001, c'è la foto dell'armatissima custode dell'eremo di Tremosine, Brescia, e ha nella mano sinistra una grossa doppietta e nella mano destra una pistola, altro che Pax Christi. Poi, dal giorno del 6 novembre, sparita la statua della Madonna del Musocco a Milano, fenomeno di anticlericalismo popolare. Però potrebbe essere una provocazione della PS contro i compagni del centro Torchiera che è lì vicino. Poi abbiamo il virus anticlericale sulle disgrazie del clero. Invece di essere miracolate, nonostante tutte le preghiere che fanno, ben tre suore sono morte di virus Covid-19 ad Arpino, in provincia di Frosinone. E concludiamo la puntata con riforma.it, i soliti leghisti filocrocevissi, appena arrivati al potere, oltre alle colossali ruberie, fanno subito rimettere il crocifisso nella sala del Consiglio regionale, e quindi una serie di associazioni, in cui purtroppo non c'è l'Associazione del Libero Pensiero, hanno votato un ordine del giorno contro il crocifisso di Stato, il quale viola il principio di laicità. Benissimo, ci vediamo alla prossima puntata. Nel fosco fium del secolo morente, sull'orizzonte cupo e desolato, si ascolta l'alba minacciosamente, del diffatato. Si ascolta l'alba minacciosamente. Sangue spunterà la nuova storia dell'anarchia, dal sangue spunterà.